siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono 100 parlamentari oggi che fanno le leggi e sono dei fuorilegge. Loro sono fuorilegge, fanno le leggi e noi dovremmo rispettare le leggi scritte dai fuorilegge. Allora io ripeto, vaffanculo. Allora io dico subito una cosa, caro David. Quando sono i 5 Stelle a pretendere una poltrona da presidenti di commissione, allora va tutto bene. Quando invece i presidenti di commissione sono degli altri partiti, sono dei criminali. Senti cosa legge. No, non sì. È esattamente. No, ma senti così. Cosa legge Grillo. Una sua giusta interpretazione, una sua provocazione, direttorissimo, però non è. No, la mia. Vada avanti con l'argomento. E secondo quello che scrive questo, Grillo. Sì, questo è Grillo che scrive. Sì. I nomi dei presidenti delle commissioni parlamentari spartite tra PDL sì. e PD-L sono un potente vaffanculo alla nazione. La lista della vergogna comprende trombati, inquisiti, mariti, vecchi scarpe dell'inciucio, riscossori di premi partita, trombettieri del falso, senatrici da supermarket con la scorta, un tocco di P2 più un tocco di D'Alema, persone nominate per aver fottuto Prodi alle elezioni presidenziali o per il loro instancabile leccare il culo da sempre a Berlusconi, una cosa di una violenza totale. Se ci fosse una commissione per i cessi di Montecitorio occuperebbero anche quella, metà chiappa PDL e metà chiappa PD-L e lascerebbero il cesso da pulire alla finta opposizione di Sel. Questo è uno scritto da frustrazione, sai che sia la frustrazione? Non vorrei ricordare al vasto pubblico della Zanzara che qui ai microfoni di Radio 24 il direttorissimo è uno di quelli che ha contribuito a mandare in Parlamento questa gente, cioè i grillini. Dopodiché nel merito c'ha ragione oggi Grillo però. Il fatto perché che abbia votato Grillo non c'entra un cazzo. Le commissioni però vanno date alcune all'opposizione, cioè i grillini. Ma non hai capito allora? Aspetta, lui poi fa l'elenco, ma lascia perdere queste minuzie. Lui fa l'elenco delle persone che sono diventati presidenti delle commissioni. Formigoni, oggi. Aspetta, e scrive, certo. Consigliato ai costipati per facilitare l'evacuazione. È una meraviglia. E per chi voglia facilitare i conati di vomito, non sarete delusi. Leggere lentamente l'elenco per evitare effetti collaterali come la perdita completa dell'equilibrio nervoso e l'insorgere di aggressività incontrollata. Andate a fanculo, basta. Però se volevi fare il governo e non avere Cicchitto presidente di commissione, lo potevi fare Grillo col Partito Democratico, con Bersani, Se non volevi Cicchitto presidente della commissione esteri, se non volevi Casino presidente della commissione esteri, Casini, se non volevi Nitto Palma, oggi eletto presidente della commissione giustizia, avevi una sola possibilità: fare il governo col Partito Democratico di Bersani. Questo è vero, però potevano anche gli altri proporre dei nomi più presentabili, come hanno fatto per il governo, ad esempio. Ma c'è chi è incorreggibile. Siamo qui, la Zanzara, 800-24-00-24. Intanto qualcuno dei 5 Stelle, come sapete, dei deputati e senatori 5 Stelle, caro Parezzo, cosa fa? Si accorge che con 2.500 euro al mese non si vive a Roma, non si campa a Roma, e dunque vogliono trattenere anche una parte dei rimborsi. Non si fa. Senti questo Della Valle, che non è non è Della Valle, né Diego né Raffaele, né l'avvocato né tantomeno l'imprenditore delle scarpe, no lo scarparo, come dice Dago Spia. Brutto. Della Valle è un deputato senatore, non me ne frega un cazzo, dei 5 Stelle. Sentiamo. E sarebbe impossibile tenersi 2.500 euro, partire dal Piemonte e vivere qua. Gli dico, io pago 1.400 euro d'affitto adesso, ho trovato un due camere così, taxi, mangiare. Allergico a tutte le prediche, Pinocchio di tutte. Ma non devi andare con il taxi. Ma quale taxi? Devi andare con il Calès, Maro. Si sono già bevuti il cervello. Porca puttana, quale taxi? Il deputato che va col taxi, con l'autobus devi andare. Mangiare il letame. Ma quale casa? Con la tenda. Ma sono impazziti questi i miei deputati del 5 sono impazziti. Il taxi. Ma vaffanculo. Sentite quest'altro, Cioffi, sempre deputato, Cioffi, intercettato, ancora soldi, è una cosa pallosa, ma siete voi che parlate continuamente di soldi? Vi siete resi conto che stare con 2500 euro a Roma non si può stare a fare i deputati? E adesso ci fate una testa così, i rimborsi, i mezzi rimborsi, vogliono il taxi. E allora 8000 e non allora 4500, però la carta di credito per controllare tutte le spese? E dai, su, non se ne può più di queste discussioni, Cioffi. Ne abbiamo firmato diciamo uno schema. Lì c'è scritto soltanto dimezzamento dello stipendio, poi la diaria non ne parla. È una cosa pallosa, dobbiamo farla per forza queste cose i soldi, è una cosa così pallosa. Che il grillo parlante non lo applaudirà. Oh, Berlusconi dice che la convenzione è tempo perso. Bisogna dire che ha ragione in questo caso, eh. Ma prima voleva fare il presidente. Sì, no? Dice che scherzava, è una battuta. Sì, tutte battute sempre ogni volta. Senti. Secondo me è tempo perso, perché? Perché una convenzione che non è prevista dalla nostra Costituzione richiederebbe dei tempi di approvazione che non farebbero altro che allungare il percorso per il cambiamento. E allora io credo che il cambiamento debba essere portato avanti. Ma è inutile adesso ripercorrere, no, il Berlusconi che diceva io presidente della convenzione, è una battuta, dice. Ma non battuta. È che dice questo perché oggi c'è una sentenza importante che deve arrivare, non è che per caso, avendo odor di sentenza, già dice che è tutto inutile e punta a buttare tutto in vacca? Abbiamo già un ospite in linea. Dov'è? Però aspetta, no, non lo vedi qua perché è collegato. Ah, perché è radio, mi sbaglio sempre. Appunto. Radio, a parte che Pannella ha sborcato un'altra volta, poi facciamo ascoltare. Dove? Più avanti. Facciamo ascoltare più avanti, Pannella. Da signor Milan ha sborcato. No. Ferrara, sulla mafia, le frasi sulla mafia. Bellissimo, ieri alla 7 da Mentana. Senti. Poi c'è una mafia corleonese militarista che uccide i magistrati e c'è una mafia non buona, ma una mafia che è, diciamo, il portato di secoli. Di sicilianismo particolare, è una mafia che ha convissuto con i cardinali, arcivescovi di Palermo, indistinguibile dall'establishment siciliano, con i sindaci, con l'esercito americano che ha liberato l'Italia. Quindi è un grande potere sociale in quell'isola maledetta dove i poteri sociali spesso si manifestano. Verrebbe da dire che anche Bin Laden è stato utile agli americani per cacciare i sovietici dall'Afghanistan. E infatti. Siamo qui 800 24 00 24, siciliani su Twitter e altrove furibondi per queste frasi di Ferrara che accosta mafia e Sicilia. Diciamo che non è un accostamento così strano, però, la maledetta isola. Gli stessi siciliani sono molto critici. No, però lo definisce quasi fosse, vabbè, ma ne parleremo dopo. Ma abbiamo con noi il nuovo segretario della commissione esteri al Senato, caro Parenzo, indovina chi è? Beh, il presidente è il signor Cicchitto a commissione esteri. No, al Senato è Casini. Il segretario è nella commissione esteri, del Il presidente della commissione esteri della Camera si chiama Cicchitto. No, del Senato è Casini. Il segretario della commissione esteri si chiama Antonio Razzi. Caro Antonio, come stai? No. Bene, grazie. Ma agli esteri ti hanno messo, Razzi? Io sono. Ho vissuto sempre all'estero. Questo è chiaro, come uno fa l'agricoltore. Cioè, tu dici che alla fine dici ho vissuto sempre all'estero, e per questo che mi hanno nominato, no? No, almeno conosco i problemi che ci sono all'estero. Ma infatti conosci perfettamente, ad esempio, i problemi che ci sono nella Nuova Guinea, ad esempio. Vabbè, che c'è, non è necessario conoscere la Nuova Guinea. Scusami, ma qual è la capitale del Portogallo? Quanto sei stato contento, Antonio? E ride lui. Beh, contento perché diciamo, sì? Essendo uno che per la prima volta è stato eletto nella sua regione, sì? L'Abruzzo, certo, commissione esteri. Diciamo, e a ricevere anche un incarico abbastanza importante nella commissione esteri con Pier Ferdinando Casini presidente, è chiaro che è anche una soddisfazione personale. Cioè, dunque, tu sei il segretario di Casini in sostanza? Diciamo, siamo l'esecutivo. Esecutivo? No, il segretario. Ma no, il segretario, nel senso che lui è presidente e tu sei il segretario. Ma che deve fare come segretario? Il segretario che fa? Che fa esattamente? Ma ci sono alcune mansioni. Sì, vabbè, che frega. Guardare i verbali, guardare le votazioni, scrutinare quando ci sono degli argomenti da votare, sì. Ci sono parecchie cosettine. Sì. Beh, non ci si ammazza di lavoro, eh. Non è che ci abbiamo la zappa in mano, No, no, questo è poco ma sicuro, caro il mio Razzi della Commissione Esteri, vorrei ripetere ancora, Commissione Esteri, una commissione, no, che è centrale nello sviluppo delle relazioni internazionali. Ma guarda che Razzi è andato a fare dei viaggi in Uganda, è andato in Uganda. Guarda, bravo, vedi che si ricorda che sono stato in Uganda. E come no? È stato in Uganda. Io credo se lo ricordano anche gli ugandesi, che infatti l'hanno rimandata in Italia. Ma che c'entra? Illico atque immediato, come dicono i latini. Però scusi, Razzi, scusi un attimo. E la verità è che no, non ci si ammazza di lavoro alla Commissione Esteri, diciamo la verità, il segretario non fa nugaz, come si dice in cose, come si dice in... No, bisogna riflettere, studiare, perché su alcuni argomenti bisogna anche diciamo decidere delle cose importanti. Ecco, ecco ad esempio, ora, quali sono, secondo lei, onorevole Razzi, della Commissione Esteri, quali sono le criticità oggi aperte? Per esempio, lei come risolverebbe la questione dei Marò? Ad esempio. Ma la questione dei Marò, guarda, se era per lei, Berlusconi, sì, presidente del Consiglio, sì. Io credo che nemmeno una settimana di prigionia faceva, che già stava in Italia da molto tempo. Ah, lei dice, Faceva sì. Ma è sicuro. Cioè, che faceva Berlusconi? È un genio. Sì. E come ha fatto con gli altri, sì. Quando c'è stato qualche... Cioè, pagava. Qualche cosa, sì. Che gli italiani erano... prigionieri, sì. In vari stati, vari, dopo di una settimana, massimo 10 giorni, erano liberi, erano a casa. Ma però pagava, si pagava negli scatti, ma non pagava niente. Ma come no? lui è un grande, conosce tutti i presidenti. Andava del lì. Mondo, sì. E trattava lui personalmente, certo. Non c'è senza dubbio. Problemi. Scusi un attimo, Razzi, allora perché non hanno fatto, se fosse stato nominato ministro degli esteri al posto da Bonini, eravamo a posto, era meglio forse. Ma per me sicuramente, certo. Però è chiaro che l'elezione gli italiani non ce l'hanno fatto vincere, non ce l'hanno vinto le elezioni, è chiaro che era tutto diverso. Oggi sì. Abbiamo abbiamo perso per un pelo, non abbiamo vinto. Poi il governo del PD, sì. Ha dato fiducia ai grillini, a Grillo. Sì. È inutile che chiacchiera oggi, sì. Che vuole il presidente di commissione o presidente, non, sì. Lo può avere, perché lui non è al governo. Comunque è ragazzi, giusto, se la pigli in quel posto. Il PD, certo. ha avuto la paura di governare e oggi si ritrova solo a discutere. Bravo. Io ammiro Grillo, perché l'ha ammirato sempre quando era comico. Quando era oggi comico. Non lo so che cosa vuole fare da grande. Ma scusi, la politica non è comicità, è una cosa seria. È una cosa seria. Io credo che però scusi Razzi, diciamo la verità, alla fine se l'è presa in quel posto Grillo, no? Adesso purtroppo è inutile che chiacchiera e vuole dire, come dire, ladro quello, questo ci hanno fottuto tutto, sì. Eccetera eccetera, non è vero niente, sono le leggi che sono così, se lui non è al governo se la piglia in quel posto, certo. Se la piglia è bravo. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, con il senatore Antonio Razzi, PDL, segretario, neo segretario della Commissione Esteri al Senato, un grandissimo incarico. Ma a proposito, sa che la Bonino incontrerà nelle prossime ore il ministro Zipi Livni? Sa chi è il ministro Livni, lei? Sì, l'ho conosciuta in Senato. Il ministro Zipi Livni? Sì, l'ho conosciuto. Sì, il ministro di che cos'è? Per quanto riguarda gli immigrati, no, il ministro Zipi Livni è un ministro del governo israeliano che è in visita in Italia in queste ore. Ah, io, siccome c'è un nome strano, è chiaro. Quello è il ministro. Io non è che mi ricordo tutti questi nomi. No, ma qui poi c'ha sti nomi del cavolo, no? Poteva chiamarsi in modo normale, la signora Livni. Se non è che Antonio Razzi così si capisce subito. Non è così chiaro, diciamo, no? Non è così chiaro, comunque. Tutti questi nomi stranieri. Lei bisogna che impari però, caro Razzi, bisogna... Come facciamo con questi nomi di ministri, primi ministri, un casino? No, questo lo conosco. Cioè il primo ministro inglese, come si chiama per esempio? Cameron, vabbè. Vai, bravo, vabbè mica tutti lo sanno. Mica è una roba facile. Beh, l'ho avuto... l'ho conosciuto, che sono stato personalmente lì al Parlamento. Certo, vabbè, è chiaro, chiaro, chiaro. Ecco, siamo perché, e quello spagnolo, ripeto, quello ripeto, spagnolo, come si chiama quello spagnolo, Razzi? Rajoy. Ma Rajoy. Guarda che mica, bravo, mica pizza e fighi qua. Beh, no, che poi dicono tutto. Guarda, e la capitale del Portogallo qual è? È chiaro che è Lisbona, ma che fa? Che devo dire, ma che Parenzo poco, pensa che lei, siccome legge su internet, dai, che lei non sa l'italiano, è vero, che è lei vero non sa l'italiano. Qual è la capitale dell'Australia? Vabbè, ma, dai, facile, insomma, su, è facile, dai. Dimmelo. E fa Canberra. Bravo. Canberra. E la capitale del Sudafrica? No, ma molte volte... Sai? Facciamo una gara. La capitale del Sudafrica qual è? No, magari... Qual è il Sudafrica? Johannesburg. Ma no, è Pretoria. Pretoria. L'India, la capitale dell'India. Pretoria, la capitale dell'India qual è, Razzi? Vabbè, Nuova Delhi. Ah, okay, bravo. Vabbè, comunque non è che stiamo facendo geografia. No, faccio una domanda a noi. Allora, no. Ad esempio, il dramma tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Lei no? Come lo risolverebbe? Con questi comunisti che vogliono attaccare. Questo no? Che c'ha le testate nucleari. Ma non è vero niente, guarda, molte volte sono anche, devo dire, i media che scrivono o... sì, no, è vero, c'è la pace per la Corea del Nord. C'è una brava persona in Corea del Nord, sono brave persone, dice lei. Sì. Io, guarda, ci sono stato 5 volte... In Corea del Nord? In Corea del Nord. Forse del Sud. Sono sempre rimasto entusiasta dei comunisti, della gente e dell'accoglienza. Ma sono comunisti, in Corea del Nord c'è la fame. Guarda, ma non è che tutti i comunisti si mangiano i bambini. Beh, Berlusconi è avvelenato con i comunisti. Cioè, lei dice che a Pyongyang si sta bene. A Pyongyang si sta tranquillamente bene. Uno ci può andare a fare le vacanze tranquillamente. Ma che dice? Che ma non ha farne problemi. Ma lei è sicuro che se scusi, lei è sicuro che se uno va sul sito della Farnesina, sa cos'è la Farnesina, no? Sì. Palazzo, quel palazzo lì. Quello lì con quella palla di pomodoro lì davanti. Sa dove si trova la Farnesina? A Roma. Fatto addirittura da Mussolini. Sì. Bravo, esattamente. No, buon'anima, no? Razzi, buon'anima. Bravo. Beh, lo so, adesso non c'è più. Bravo, quante lui. Cose buone quante cose buone ha fatto Mussolini, tante, eh? Ha fatto, guarda, dobbiamo dire, dobbiamo dire che le ultime opere l'ha fatto lui, le ultime grandi opere che c'è in Italia. Sì. L'ha fatto lui, cioè io non sono di quel partito, no, ripeto, però bisogna riconoscere però, quante cose buone ha fatto. Quello che è fatto è fatto, quello che fa, cioè, è che quello che fatto è fatto. Secondo lei ha fatto più cose positive o negative? Positive. Io vedo sì. Cruciani e sì. Parenzo sono bravi a Radio 24, sì. sono bravi, non è che posso dire che non sono bravi. Ecco. Ma non c'è dubbio. Scusi, per cui è stato molto bravo in alcune cose. Mussolini è stato bravissimo. Ma è chiaro. Ma in che cosa, dopo, per esempio? Che appunto, su quanto riguarda l'infrastruttura, è stato eccezionale. Eccezionale, c'è dubbio. Dobbiamo che ne so, dire. Le leggi poi, sociali, la legislazione poi, sociale, il lavoro. Dopo, ecco, le pensioni sono nate da lui. Le pensioni sì. Che oggi percepiscono gli anziani è partito al tempo di Mussolini. Beh, si potevano fare anche in altro modo, No, ma quello che bisogna riconoscere. No, ma lei ha ragione su questo. Razzi, senta, noi adesso abbiamo la pubblicità. Mi sto divertendo come un pazzo perché lei è sempre il numero uno, segretario della Commissione Esteri al Senato. Votate Antonio Razzi. A favore della Corea del Nord? Abruzzo, che è la mia regione, ci abita una parte della mia famiglia. Ah, è vero. Io prima o poi devo incontrare Razzi a Pescara, assolutamente. Fatti andare a mangiare insieme, lo so. Mi ha parlato in un ristorante pazzesco l'ultima volta. Lo so, il giornale radio, se lei è in macchina, tra un quarto d'ora la richiamiamo. Siete due bastarde. Nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltarvi, tanto per cominciare. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo via. Io da Miss Parenzo voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Santo Domingo mi rompo i coglioni. Usi. Allora voglio leggerti, caro Parenzo, quello che ha detto. Quello che ha detto, stai zitto, quello che ha detto Rodotà, credo che abbia incontrato oggi i parlamentari del 5 Stelle. No, il grande Rodotà, no, quello che. No, il costituzionalista. Al posto di Napolitano avrei dato incarico al Movimento 5 Stelle. Vabbè. Con quali numeri, scusa? No, ma voglio dire, bastava dire, sarebbe stato, sarebbe stato, era voluto dai 5 Stelle, osannato dai 5 Stelle. No, d'accordo, però, che, però non puoi dire al posto di Napolitano avrei dato l'incarico a quelli del 5 Stelle. Cioè, avrei provato a dare il mandato, ma dai, esplorativo, su, a, che è la stessa cosa che però disse il sindaco Emiliano, Il sindaco Michele Emiliano propose proprio questo. Senti, il neo viceministro Fassina sostiene che questo governo, il suo governo, non farà cose stratosferiche. Non potevamo andare a votare con questa legge elettorale, quindi questo non sarà un governo che farà cose stratosferiche, perché non è nelle condizioni di farlo, perché ci sono due forze alternative che rimangono alternative e su questioni emergenziali, l'ha detto il presidente. Dal giardino alla cantina l'ho inseguita, ti ho inseguita, ora segui fra le mie dita e balli su twist, e balli su twist. Titoli del TG3, torniamo tra un attimo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Tragedia nel porto di Genova, una nave abbatte la torre di controllo, 7 vittime, 2 dispersi, un uomo ritrovato vivo sotto le macerie. L'incidente è causato dall'avaria ad un motore o per velocità, il comandante di pilota è indagato per omicidio colposo plurimo. Tra pochi minuti la sentenza di appello sulla compravendita dei diritti TV da parte di Mediaset, in primo grado 4 anni a Berlusconi. Chiesto il rinvio a giudizio per Formigoni ed altre 11 persone, l'accusa è di corruzione e associazione a delinquere per il caso Maugeri. Equilibrio cruciale per la magistratura, dice Napolitano, alla riunione del CSM Santa Croce, vicino al centrodestra, eletto presidente della Cassazione. Il candidato del PDL Nitto Palma, presidente della Commissione Giustizia del Senato, al quarto scrutinio, col sì dei Montiani e le schede bianche del PD. Trattativa aperta nel PD alla ricerca del segretario, spunta anche l'ipotesi di anticipare il congresso. Incontro tra Bersani e Renzi per individuare scelte condivise. Sono come zanzare. Maria da Roma, eccoci qui. Maria da Roma, 800 24 00 24. Sì, Maria, sì, dica. Siamo noi. Siamo noi. Vi siete bevuti il cervello. Ma siamo noi chi? Noi chi? Voi, voi, tu e quell'altro. Ah, siete, ma siamo noi chi? Bibi e Bibo. Non ho capito, Maria, scusi. Bibi e Bibo. Ah, Bibi e Bibo. Allora, Bibi e Bibo, vi siete bevuti il cervello per un motivo. Continuate a pensare che Grillo doveva metterci d'accordo con la sinistra. Ma per quale motivo? Ma per quale motivo? Ma chi lo sostiene? Io non l'ho mai sostenuto, stavo Grillo, rispondendo a una no, cosa. No, no, no, Grillo deve avere il senso come perché sei un bel cabrone, altro che. Maria, e lo dici sempre, e lo dici io sempre. Ho detto che se voleva non contare qualcosa, se voleva contare, adesso protesta per no, le commissioni. No, non voleva contare perché già conta. Ha benissimo, contato, ma guardi che prima va benissimo così, non voleva sto contare di che? Senta, non sto facendo un rimprovero a nessuno. Siccome siamo in democrazia. No, io non sto facendo un rimprovero. Siamo in democrazia. I numeri sono numeri. Sto semplicemente dicendo che non dovete continuare a dire sta cosa. Ma noi diciamo il cazzo che ci pare. Lei ha capito o no che diciamo quello che vogliamo? Deve stare da solo. Non benissimo. Deve stare. Sono d'accordo con lei. Destra, sono d'accordo con lei. E allora non protesti per le commissioni. Allora siamo d'accordo. E allora non protesti per le commissioni. Perché le commissioni in Italia si fanno in questo modo. Cioè la maggioranza si spartisce le presidenze. Punto e basta. E io faccio solo il voto di protesta. Ma lei può fare tutto il voto che vuole, non mi interessa. Io faccio tutto quello così che voglio, e voi potete dire tutto quello che volete. Vabbè, se le piace su così. Vabbè. Grazie Maria. Grazie, Gaspare. Da Palermo, buonasera Gaspare. Sì, buonasera a lei. Io chiamo in merito alla discussione polemica che c'è stata ieri sera quando si parlava di Dell'Utri. Sì. Io sono palermitano. Non ho niente in contrario che lei sia libero di dire che chiunque le sia simpatico. Le voglio fare notare una cosa, che il dramma della mafia per noi che viviamo qui non è un dramma astratto così che riguarda chissà chi. Ma chi dice è un dramma che è astratto? Che... Mi fa finire il concetto, giusto? Sì. Mi fa finire. Sì, è un dramma che riguarda tutti personalmente. Nel momento in cui c'è una persona che simpatizza, mi faccia terminare, giusto? Nel momento in cui lei mi faccia terminare, non mi fa terminare neanche di quello che devo dire. Purtroppo non è l'associazione libera che fa delle cose meravigliose. Mi faccia terminare. Nel momento in cui c'è una persona come lei, che ha un seguito di ascoltatori e dice che simpatizza per uno che comunque è stato con quello che lei sarà libero di dire che le fa simpatia. Ma per noi siciliani italiani siamo liberi di dire che lei è uno stronzo. Ma lei, infatti, è bravissimo. Ma glielo faccio anche dire. Vedi, io sono talmente aperto che lei ha la radio. E allora mi sta benissimo e mi continua a essere simpatico. Benissimo. Così. Però ci tenevo a dirglielo. Ma lei può dire quello che vuole. Io sono talmente aperto che lei può chiamare dirmi e darmi dello stronzo. Non c'è nessun problema, Gaspari. Io continuo. C'è una ragione almeno dietro. Se invece lei fa questo tipo di osservazione, lo fa, a mio avviso, perché lei è una persona intelligente, esclusivamente per la questione di sciacallaggio e per sciacallaggio mediatico. Ed è ovvio che è così, ma lo fa anche lei. Gaspare, e mi fa anche bene. Ma quando lo fa con chi ha concorso con Gaspare, la mafia, amico mio, Gaspare, le dico subito. Amico mio Cruciani. Sì, le dico subito una cosa. Io non ho detto che Dell'Utri mi sta simpatico quando conosce i mafiosi. Aspetti, quando conosce i mafiosi o quando ha rapporti con la mafia. Ho detto che, per quello che mi riguarda, quando sta in trasmissione, quando gioca con noi, quando fa delle battute, cioè, è comunque una persona che quando uno la incontra è simpatica, punto. Poi non mi il resto può interessarmi o può non interessarmi. Dal punto di vista giornalistico cerco da Dell'Utri altre cose, non il processo a Dell'Utri sulla mafia. Lei può dire non è questo il suo compito, quello perché ci sono altri che lo fanno molto bene, altri fanno il processo a Dell'Utri, io non mi interessa, cioè non sono interessato. Non interessa a me come quando Benigni diceva ma il mostro di Firenze sarà stato bravo perché avrà detto pure buongiorno. Ma io non ho detto questo, cioè, che è bravo, che è bravo, sì, ho detto che mi sta simpatico, a me non è che è simpatico però, in assoluto, ma che vuole? Ha fatto quello che ha fatto, ha fatto quello che ha fatto. E poi chi deve gestire la comunicazione come fa lei? Oddio, posso gestire la comunicazione? Io faccio un programma, punto e basta, faccio un programma. Ma ho detto che mi sta bene. Però sappia che non è mosso né elegante né felice. Vabbè, non sarà elegante né felice. Ha ottenuto quello che ha voluto ieri, infatti c'è stata una buona polemica. Ma la cosa che non mi è piaciuta anche è stata quando non sapeva più cosa dire e diceva a quel signore che l'ha fatta nero, diceva lei alla moglie con la panza, la moglie con la panza, perché non sapeva più che cosa dire ieri. Lei non sapeva più cosa dire, gli diceva alla moglie che ha fatto, ma non ho detto adesso questo. Vuole che era la fine di un discorso. Era la fine di un discorso, Gaspar, non ha capito. Lei non sta chiamando nel modo in cui ha chiamato il signore di ieri. Era la fine di un discorso. Di una polemica sarcastica, io ho detto. Aveva ragione quel signore. Ma secondo lei aveva ragione? Secondo me no. Ma cosa vuole che le dica, Gaspare? Grazie. È ancora con noi il senatore Antonio Razzi. Eccoci qui, caro senatore. Mi attaccano peggio di lei. Mi attaccano peggio di lei. Sto qui crocifisso così. Crocifisso con i chiodi. Tu. Con i chiodi. Comunque ne dovete sopportare peggio di noi politici. Guardi Razzi, scusi, ma ha visto che adesso questi del 5 Stelle le vengono un po' dietro, no? Lei è stato il primo a dire non si può campare a Roma con 2500 euro e adesso questi grillini ha fatto scuola Razzi. Ma io infatti su un'intervista ho detto non dite 2005, aspettate 5-6 mesi e poi dite quando potete spendere o quanto potete avere. Ma lei ma che non ci parla adesso prima di cominciare. Bravo, e loro a Roma che dicevano? Non regala niente nessuno. No, ma scusi, ma quando ci parla lei in Senato con questi qua, che dicono i suoi colleghi senatori? Beh, veramente c'è poco dialogo. C'è poco dialogo, non la possono vedere. Dialogo. Non la possono vedere. Loro stanno tutto indaffarati con computer, screen, controllo, guard, devono controllo? Domandare a Casaleggio, devono domandare a Grillo, io non devo domandare a nessuno, io ho il mio presidente Schifano e domando a lui. E basta. Allora intanto condanna confermata per Berlusconi. Eccoci qui, 800 24 00 24. Pochi istanti fa processo Mediaset a Milano, in appello la conferma della condanna di Berlusconi a 4 anni. Ma la cosa più interessante, oltre alla condanna a 4 anni, ovviamente la conferma in appello, è l'interdizione dei pubblici uffici non perpetua per 5 anni. È giusto il tempo della legislatura, diciamo. È per noi davanti al Tribunale di Milano Raffaella Calandra, buonasera. Ah, ottimo. Sì, più che davanti direi dentro il Tribunale di Milano. Davanti, quindi... dentro, scusa, ti immaginavo, sai come, no? Dentro, durante mani pulite. Ad ascoltare le reazioni degli avvocati. Esatto. No, ci andrò tra qualche istante. Bene. Sono ancora dentro l'aula della seconda sezione della Corte d'Appello di Milano, dove, come ricordavate, pochi istanti fa, dopo una lunghissima Camera di Consiglio, più di 5 ore, la Corte d'Appello ha confermato completamente la sentenza di primo grado, quindi la condanna a 4 anni per frode fiscale per Silvio Berlusconi, l'assoluzione invece per Fedele Confalonieri, unico assolto tra gli 8 imputati. La questione centrale, come ricordavi, è quella dell'interdizione dai pubblici uffici. Ma scatta subito? No, assolutamente. Innanzitutto bisogna aspettare la Cassazione, quindi bisogna aspettare che cosa la Cassazione stabilirà su questo processo. Dopodiché, a quel punto, sarà la Giunta del Senato, che è la Camera di appartenenza in questo momento di Berlusconi, a dover votare sulla decadenza dallo scranno di senatore di Berlusconi. Certo, in questa situazione politica, con questi numeri così, diciamo, in bilico, non è di sicuro una situazione molto tranquilla per l'ex premier. Ma se la Giunta per le autorizzazioni paradossalmente votasse contro, comunque lui decadrebbe dalla carica. Certo, sì. Ah, ecco, appunto, quindi è un passaggio cioè il fatto no, che no, non è formale, no, è la giunta deve decidere che cosa come regolarsi. Ah, non è automatico. Non è automatico, quindi no, può succedere, io non mi ricordavo, cioè, potrebbe succedere un conflitto, comunque il voto. Può succedere un conflitto tra la sentenza della magistratura che dice che deve essere sospeso dai pubblici uffici e la politica che dice invece no, deve rimanere parlamentare. In teoria sì, anche se con il decreto Monti le norme anche su questo sono diventate più severe, quelle del dicembre dell'anno scorso, anche se si applicano soprattutto sul discorso dell'incandidabilità. Al momento lui deve passare comunque attraverso il voto della sua giunta, quindi della giunta del Senato. Bene, grazie. Ma Ghedini, signor Ghedini, c'era ad esempio Ghedini? Ci sarà Ghedini. Certo che c'è Ghedini, e che cosa prima della sentenza ci aveva confidato di essere molto pessimista sull'esito. Pare le sue previsioni hanno avuto ragione, però ancora non ho avuto occasione di sentire il suo commento. Ghedini, salutacelo tantissimo, gli amici della Zanzara la anche salutano, lungo, anche lungo. Anche lungo. Grazie. Ciao. Beh, certo, adesso a noi la cosa che interessa sono le ripercussioni sul governo. 800 24 00 24, dove andiamo? Vittorio da Firenze, buonasera Vittorio. Buonasera. In un paese normale una cosa del genere, insomma, si dovrebbe essere già dimesso, penso, questo signore, no? Vabbè, è una vecchia questione questa qua, un paese normale. È l'Italia. Ha già una condanna Berlusconi, peraltro. Aveva già una condanna in primo grado, dico, adesso ce l'ha in secondo grado, c'è la Cassazione, aspettiamo la Cassazione. Arrivederci, grazie. Aspettiamo la Cassazione, no? Benissimo, volevo dire un'altra cosa. Io penso, la mia telefonata era per questo qui, che il PD perde i suoi elettori. Io è un argomento un po' vecchio, forse non so, ma ha fatto un colpo di mano in realtà verso i suoi elettori. Cioè? In questo senso, cioè, ma io che non è campione, c'è cioè il PD e per 40 anni se lo voto, diciamo, in contrasto con la destra, no? E adesso mi ci vanno a braccetto, ma insomma io con sta gente che cosa ho? Ma lei ha votato PD? Lei ha votato PD? Da 18 anni fino a 50. Ho capito, caro Vittorio, però la situazione è questa. Capisco che lei faccia schifo essere alleato del PDL che ha Berlusconi condannato in appello a 4 anni qualche istante fa. Non c'è dubbio, la capisco anche, l'abbraccio fortissimo, le sono vicino. Però qualche volta la realpolitik c'è la anche in Germania hanno fatto così qualche volta, certo, in forme diverse, non c'è Berlusconi, eccetera eccetera. Però questa è la realtà, se ne deve fare una ragione. Ma io Corrazzi, mi perdoni, ma che cacchio c'ho da spazio? Ho capito, ma io la capisco, l'abbraccio fortissimo, le sono vicino. Adesso fra poco avremo un senatore del Partito Democratico che sicuramente è dalla sua parte e che capisce il suo disagio. D'altra parte in qualche commissione bisognava metterlo, no, questo signor Razzi? E anche signor Nitto Palma, non è che tu stai con Berlusconi e poi ti fa schifo Nitto Palma. Ho capito, però stai con Berlusconi e forse quando uno sta con Berlusconi poi ti becchi Nitto Palma, Formigoni, se ti fanno schifo è così. Dunque, è interessante questa cosa qua. Vittorio, scusi un attimo, se non capisco male lei non voterà più Partito Democratico per io questa... mai più e mai poi, cioè con questa gente, ma spero perdano milioni di voti questi signori. Addirittura. Perché sì, spero di sì, perché le spiego, perché è come una squadra di calcio che gioca e poi si mettono gli altri a senso unico, non è una logica, non ha una logica. E vabbè, grazie. Zanzara! Siamo qui, 800 24 00 24. Senatore Mineo, ha sentito questo elettore del Partito Corradino Democratico? Corradino Mineo! Ha sentito. Beh, ha sentito, sfonda una porta aperta, no? No, guardi, è assolutamente comprensibile, perché noi in campagna elettorale avevamo detto il contrario, e poi, per errori nostri peraltro, e anche perché il risultato delle elezioni è stato deludente, ma anche per errori nostri, siamo andati a chiedere al presidente Napolitano un secondo mandato, sapendo benissimo che lo schema che Napolitano avrebbe preteso era quello dell'accordo PD-PDL. Però, ma ha sentito questo elettore che dice del Partito Democratico? Adesso abbiamo fatto l'accordo e Berlusconi condannato a 4 anni. Adesso le faccio subito una domanda. La condanna, la conferma era abbastanza prevedibile, no? Lei dica al PD Berlusconi condannati in appello 4 anni, 5 anni di interdizione dei pubblici uffici, abbandoniamo subito il governo, Mineo. Via. Ma non ci penso proprio a dire questa cosa, nel senso che nel momento in cui abbiamo fatto Napolitano Presidente della Repubblica e lui ha posto delle condizioni, cioè è ovvio che deve andare avanti. Il governo Letta deve andare avanti. Il problema nostro è un altro, che dovremo spiegare anche a quell'elettore che vorrà ascoltare, perché io stesso prima lo voglio sapere, perché non l'ho capito, neanche io ho delle idee. Vabbè, lì farete il congresso. Lei è sulle barricate, Mineo. Si è arrivati al contrario della politica che abbiamo proposto. Cioè lei dice, nonostante la condanna a 4 anni in appello e l'interdizione dei pubblici uffici. Ma non cambia nulla, ma vuole non sapere che Berlusconi sarebbe stato condannato. Guardi, le dico una cosa, se lei non ha studiato, l'ha studiata, sto scherzando ovviamente. No, ma mi può dire anche che non ho studiato. La storia patria. Sì. C'è una vicenda, quella Mondadori, quella per cui poi alla fine fu condannato Previsi, in cui con tutta evidenza il corruttore era Berlusconi, ed è stato prescritto grazie che Berlusconi fosse un delinquente, dice lei, non lo sapevamo già. Non un delinquente, no, in senso tecnico, Berlusconi è una persona che diciamo è molto esposta, ha molti interessi, li ha difesi in modo molto spregiudicato, e questo è il punto di fondo, e davanti a questo poi a un certo punto in un paese di diritto arrivano le condanne. Beh, ma non si poteva immaginare la condanna così. Dunque è un corruttore, secondo lei. Se vuole un giudizio, il problema di fondo è che questo uomo, che è veramente un uomo politico importante della nostra storia, penso che quando faremo la storia diremo che è stato il più importante dopo Mussolini degli ultimi periodi, ovviamente. Sì, beh, però certo, questo uomo politico ha un'idea dello Stato, del contratto, degli accordi, che è molto particolare. Cioè lui compra, lui baratta, lui non accetta il... Però Mineo, mi scusi, lei non può ammettere che ci sia stato nei confronti di Berlusconi, anche alla luce della condanna di oggi, un accanimento giudiziario. Lei che è un uomo di sinistra, però è una persona intelligente, non è uno di quelli pasdaran che ce l'hanno con Berlusconi così senza ragionare. Non può ammettere che ci sia stato una sorta di tiro al piccione in tutti questi anni. Questo si può dire o no? No, guarda, allora io penso che spesso ci sia stato nella nostra amministrazione della giustizia eccessi, e sono diciamo fra quelli più garantisti. Il problema di Berlusconi però è un altro, è che quando tu usi il tuo potere così pesantemente come lui l'ha usato, l'accanimento viene dai giudici tutti, dai giudici della sua parte. D'altra parte, come lei sa benissimo, in America c'è l'oltraggio alla corte. Quando il giudice ha la sensazione che lo stai menando per il naso, arriva la condanna senza remissione di peccati. Vai. Questo è il problema. Lui ha messo sotto accusa, qui c'entra anche la vicenda di Nitto Palma, tutto il sistema giudiziario italiano, un po' per i suoi interessi, un po' per l'autorizzazione del mondo. Mineo, non è riuscito a chiudere. Ma scusami, come fai a dire che la condanna era scritta? Come fai a dire che si sapeva già che sarebbe andata così? Perché avevo visto le carte della condanna in primo grado. Scusami, francamente, come si fa? Ah, quindi anche in Cassazione sicuramente lo condanneranno allora? No, e questo non lo so. Lui pensa di no. Berlusconi pensa di no. Siccome Berlusconi ne sa di più di me e di lei, no? È possibile che in Cassazione non sia condannato. Allora facciamo risentire quello che ha detto l'altro giorno Mineo da Telese, che è stato forse mal interpretato, però quando si usano certe parole facciamolo risentire Radio Yes, da Luca Telese, che è nostro amico, anzi super amico, e sentiamo. Nitto Palma in Commissione Giustizia Senato? Ormai è una follia. Io spiego ai miei amici e compagni del PD che l'unico modo di tenere il governo in piedi è sparare. Perché non sparare? Come no, sparare? Attenzione. E sparare contro le cose indecenti. Nitto Palma. Contro le cose? Indecenti. Spero che Nitto Palma non sia nominato presidente. Consigli Nitto Palma. Fate che le ha portato male questa affermazione, perché oggi Nitto Palma è passato, Mineo. Ma no, io no, guardi, io la parola sparare, che vuol uno dire? Sciocco. Sono stato uno sparate dialettiche. Manderò fiori e scuse a Nitto Palma, perché la parola sparare, come lei ha capito, era chiaramente sparare parole. Era, no, però Però siccome io capisco che le parole possono offendere comunque, ferire comunque, Io mi considero uno sciocco e gli chiederò per questo scusa, anche se devo dirle sinceramente che vorrei farle vedere che cosa è uscito sul Libero e sul Giornale su di me, No, non sparare parole proprio. Ma cosa, nei commenti? Come li considera però, Libero il giornale? Come li consideri, direttore no, Mineo? Li considero, io sono, erano la mia fonte fondamentale per capire le cose di Berlusconi di quella parte, quindi voglio dire di solo grado. Ma è uscito che cosa? Sui titoli o nei commenti? No, cioè, no, hanno fatto i blog, non puoi capire. Vabbè, lasciamo perdere. Dunque, non me ne frega niente, io non sono... cioè, no, diciamo così, lei non invita a sparare a Nitto Palma, diciamolo non tutta. Non ci penso proprio, ma io non invito a sparare a nessuno. Nel modo più ma lo considera ancora indecente Nitto Palma? Questo assolutamente sì. Ma perché? Cioè, scusi, ma se uno c'è... questo è legittimo. Palma è la punta di diamante di quel progetto che dicevamo prima, che è andato molto avanti, che è un progetto di destrutturazione del nostro sistema giudiziario. Berlusconi a un certo punto ha tentato di disarticolare l'amministrazione della giustizia. Lei lo e ci sa, proverà ancora, sa, secondo lei? Se lei ha un qualunque problema giudiziario, l'avvocato, prende un avvocato insomma di grido, noi giornalisti un po' di soldi che abbiamo ce lo possiamo permettere, e l'avvocato la prima cosa che gli dice, vabbè andiamo in prescrizione, andiamo in prescrizione, perché i potenti non vengono più quasi condannati, perché c'è la prescrizione. Beh, ma mica solo perché c'è l'avvocato di grido, cioè allora, la prescrizione è uno strumento che è previsto. No, la prescrizione non funziona per i poveracci. Allora, perché io voglio capire, stasera Mineo ha detto una cosa fondamentale però, non è la questione, non è la condanna di Berlusconi, il governo Letta deve sopravvivere, giusto? A prescindere dalle condanne di Berlusconi. Sì. Non è la condanna di Berlusconi che fa cadere, che può far cadere il governo. Io se potessi dire, ma lo cioè il male vero è stato, il male originale è stata la rielezione di Napolitano, giusto? No, non avremmo dovuto andare a Napolitano, Napolitano ha uno schema che secondo me è sbagliato. Dunque, quello è il male originale. Sì, non il male originale, perché ho una stima enorme per il Presidente. Vabbè, ma dico l'operazione. Si può non condividere. Io penso che il PD e PDL non siano PC e Democrazia Cristiana, che l'Italia di oggi non sia l'Italia degli anni 70, che diciamo la non risposta della politica ai bisogni, alle rabbiature delle persone è tremenda, la chiusura dei privilegi della politica, che non sono lo stipendio. Vabbè, adesso i privilegi non è che sia per forza, ma le commissioni però, scusi. No, cioè voglio dire, c'è tutto un mondo lì che è autoreferenziale. Cioè le fa schifo per esempio Formigoni alla presidenza della commissione, rinviata a giudizio presidente della commissione agricoltura. Io dico semplicemente che è stato un modesto accordo questo, cioè mentre Letta è stato più bravo con i suoi ministri, ha sbracato un po' con le commissioni. Quando si è andati giù per lei, come succede spesso anche nella prima repubblica, sui sottosegretari se ne vedevano delle belle. Ecco, il peggiore qual è sui sottosegretari? Ma anche i vostri, del PD, perché per esempio Fassina, che è uno di quelli che proclamava a destra manca mai con Berlusconi, lei se lo sarebbe aspettato, vice ministro all'economia? Dice, no, mi dica la verità. No, ma quello, figurarsi, quello era una delle cose che ci stavano pure prima. Io per esempio, tutto sommato, se dovessi dire, ma odio questo discorso sulle persone. Vabbè, no, però Brunetta, al di là di certi atteggiamenti, è uno che peggia. Quindi è meglio discutere con Brunetta che con la Biancofiore, che mettere, Nitto Palma alla giustizia o Sacconi al lavoro. Ecco, questo. Però vabbè, questo Sacconi diceva... pure non è che sia uno stupido, uno non può non condividere. No, anche Sacconi pensa, però le posizioni sue sul lavoro saranno molto difficili. C'è la Biancofiore, per esempio, è una che le fa orrore, la Biancofiore nella squadra di governo. Orrore, è pure una bella signora, ma perché mi dovrebbe fare orrore? Michichele fa orrore, a proposito di Sicilia. Michichele, mi trovo anche uno simpatico da questo punto. Ho capito. Anche Michichele mi sembrava che un passo indietro potesse essere opportuno. Cioè, il problema è che ci vuole veramente molta aria nuova, e che se noi non ci facciamo interpreti di questo rinnovamento saremo travolti. Senta, Mineo sulle barricate. La mafia è sempre... barricate? Perché voi... Ma non mi pare barricate, ha detto che Letta deve sopravvivere. Sono tendenzialmente... Beh, adesso moderato. Ma le piace Barca? Allora mettiamolo su un altro piano. Anche quando, tanto tempo fa, sentiamo Ghedini, aspetti un attimo, mi faccia sentire Ghedini un attimo. Sentirci fare un processo sereno a Brescia. Ci siamo resi conto che era totalmente inutile dare il nostro contributo. Vabbè, Ghedini dice magistrati di Milano prevenuti. Mineo, dicendo che anche quando diciamo facevo politica tanti anni fa a sinistra, sempre del PC, con una posizione molto critica nei confronti del PC, io sono sempre stato, ho cercato sempre di essere realista, non utopista. Quindi con la condanna di Berlusconi quanto può durare il governo, al di là del fatto che lei vuole che sopravviva? Secondo lei? Se io fossi il suo amico, consigliere, la sua fidanzata, Gli direi, che è un po' diversa da lei. Vabbè, certo, ma sei una persona, un'anima, sì, certo, pure lei, certo. No? Ecco, un pensiero, no, un po' diversa, nel senso un po' più giovane, diciamo, no? Vabbè, meno male, capisco bene. Vabbè, lei, che è una bella cosa. Allora, se io fossi fra i suoi intimi, sì, no? Sì, ecco. Ammettiamo che Paolo Bonaiuti gli parli ancora, o che Gianni Letta sì, abbia qualche possibilità di incidere. Cosa consiglierebbe? Perché l'uomo, gli direi, senti, se tu oggi fai un passo indietro, tu entri nella storia. Se ti ostini, ma passo indietro che vuol dire? Ma lui deve per mollare, esempio, lui deve mollare. Di mettersi dal Senato? Deve fare come sì, deve fare come Andreotti e accettare i suoi processi. È un posto nella storia rilevante, non glielo toglie, non glielo toglie nessuno. Cioè, di mettersi immediatamente da senatore, dice lei. Se lui insiste, oltre a fare danno a noi, sì, al paese, sta danno a se stesso. Di mettersi da senatore immediatamente, dalla sì, politica. Io diciamo, se fossi un privato cittadino, ho capito, amico, ho capito, di Silvio Berlusconi, glielo direi. Però è giusto che dopo la condanna in appello uno si dimetta da senatore, al di là del fatto del consiglio, giusto o no? Ma assolutamente sì. E che ne so io, sì, uno perché, magari... perché uno che è stato l'uomo centrale della politica italiana negli ultimi 20 anni, che sembri che si nasconda, che voglia la nomina a vita, sì, o sì, che sì, voglia la presidenza della commissione, prima lo dice e poi lo nega, sì, della convenzione, prima lo dice e poi lo nega, per nascondersi, sì, per vincere una battaglia che ormai ha perduto, perché è come, guardi, beh, ha perduto, quella spera di essere assolto in Cassazione, ma il consenso ce l'ha ancora quella battaglia. Quella battaglia l'ha perduta perché la svolta di regime, se doveva farla, doveva sì, farla prima. Oggi lo spazio non persa c'è la battaglia più giudiziaria, vince mi sempre faccia quella capire delle una urne, cosa, però, ha sentito Giuliano Ferrari, no, ieri l'ha perduta. Vabbè, la battaglia, voi sbagliate a pensare che anche se i sondaggi lo danno in testa che Berlusconi sia un vincitore, Berlusconi è un perdente. Beh, oggi è che tanto, è ancora più perdente. Mineo, ma questo è un altro perdimento. Un'altra cosa, no, ma è interessante questo ragionamento. Un'altra cosa è questa: secondo lei la mafia è essenza della Sicilia, come ha detto Ferrara, oppure è un'oscenità a dirlo? No, è una ferrarata, perché se è una ferrarata, però iniziano in Sicilia in questo momento. È chiaro che la mafia pervade molte cose in Sicilia, va bene? Sì. E soprattutto pervade la classe vabbè lui dirigente. Ha preso atto della situazione, allora perché una Ferrara... soprattutto pervade la classe dirigente, sì, che sì, vive, no, di affari mafiosi, sì, di intermediazione, di sì, parassitismo, però insomma c'è una Sicilia onesta. Io vorrei ricordare a Ferrara, sì, certo, che Placido Rizzotto era, sì, aveva un padre che aveva avuto guai con il prefetto Mori ed è morto da eroe. Ma lui non è che ha negato che ci sia una decisione. In passato aveva il papà mafioso, sì, ed è ricorre l'anniversario, beh, certo, dell'assassinio di, sì, mafia. Allora, domani devo chiudere, devo chiudere. Di Mattarella, ecco, sì, voglio, grazie. Ciao, Sicilia bella. Ciao Corradino, ciao. Salutaci, grazie, la Sicilia. Ciao, ciao, ciao. Giorgio da Bologna per chiudere, 30 secondi, poi abbiamo la pubblicità. Tu per Giorgio, chiudere, andiamo avanti fino alle 21, sola, fino alle 21 a combattere. La pubblicità, la pubblicità. Sì, con questa bellissima notizia, per cui non posso altro che godere. Credo che il senso di frustrazione... Godere, credo, lei gode per la condanna di Berlusconi. Vabbè, questo è legittimo. Certo, certo, certo. Cioè, ma per esempio questa sera si masturba quasi. Ma no, che schifo. Giorgio, è caduto. Mi sa che c'ho ragione io. Dove è già andato? Mi sa che c'ho ragione io. Secondo me c'ho ragione io. È impazzito, vabbè. Giorgio è impazzito. Vabbè. Zanzare. Io trovo in montagna, in collina, in campagna e a calmare. Santo Domingo mi rompo i coglioni. Scusi. Una parola di turista in città e se no dormire. Zanzare. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Mi rompo i coglioni. Eccoci qui, qualcuno ci accusava, Parenzo, di aver utilizzato espressioni troppo carine nei confronti del signor Dell'Utri, ma noi lo rivendichiamo, ce ne fottiamo di questi ben pensanti. Si può chiamare, si deve chiamare la zanzara. Si deve chiamare assolutamente. Ma è necessario rimettere al ritorno di ogni pubblicità. Io, David Parenzo, amo Marcello Dell'Utri. Lo voglio bene. Ma adesso lo faccio ancora più. Io amo Dell'Utri. Però non ripetetemelo. Io amo Marcello Dell'Utri. Marcello, ti amo. Ma non è necessario rimetterlo sempre, però poi. Non solo è necessario, è doveroso, direi. Morsi. cominciare. Siamo qui 800 24 00 24, riprendiamo da Ferdinando. Puntata Novara, dedicata Novara a Cecil Keyang, questa. No, Kieng. Kieng. Tu non sai nemmeno Keyang. La pronuncia, ma quale... Pyong Yang, pensiamo. Vai, Kieng. Kieng. Non sai nemmeno come puntata si pronuncia. Puntata dedicata a Cecil mai? Kieng. Ma perché? Ma la, no, ma assolutamente. La zanzara è con te per le tue battaglie. Ma quali battaglie? Ius soli. Io sono contrario. Ius soli subito. Ferdinando da Novara. Salve, buondì. Niente, volevo intervenire relativamente alla discussione che si è fatta sulla Boldrini, no? Mi sembra un discorso paradossale. Sì, mi in sembra che invocare senso? Il libero fotomontaggio nel libero web. Cioè... Assolutamente sì, lo rivendico in maniera più assoluta. Poi se qualcuno si incazza e va dal giudice, va dalla polizia a denunciarlo, vada pure, per carità, ci sono le leggi vigenti, ma addirittura istituire, come sembra, un ufficio per proteggere la signora Boldrini da quello che succede nel web. Beh, amici miei, ci sono cose molto più importanti, uno se ne può anche fottere di quello che avviene nel web. Mi permetto, se è così, no? Adesso faccio anch'io, mi metto copia e incollo due foto sue, sì? La metto con una foto nuda, con il pisellino, poi ci metto benissimo sotto, ecco qua perché è arrabbiato tutte le sere, Cruciani. Ma la faccia, io mica, poi... io non la denuncio, la posso perfetto, assicurare che non la denuncio. Allora, da qua in avanti sei tutto libero, se questa è quella libertà. Ma non che è libero, porta... non è libertà, se uno si arrabbia e dice che c'è diffamazione, vada, se ci sono le leggi, questo e ci sono è le leggi, vada a fare ricorso, denuncia, eccetera. Le assicuro che se lei vuole fare un fotomontaggio con Cruciani nudo, che bacia un uomo, che sta trombando con qualcuno, non c'è nessun problema. Cioè, faccia tutti i fotomontaggi che vuole, a me non mi interessa di quello che accade nel web. Ovviamente quando ci sono minacce ci sono le autorità competenti che se ne occupano, punto. Di che, cioè, la risposta è: ma di cosa stiamo parlando? Se uno si sente diffamato ha diritto di passare per le vie giudiziarie, sì, quello che sì ha fatto la signora Boldrini, il presidente del Senato, della Camera. C'è il mitico Savino da Bari. Savino, buonasera. Oh, Savino. Ciao. Ma da ciao dove chiami, che non si sente niente? Da dove chiami? Da casa. No, ma ammetti che grotta, sei in viva voce. Con telefonino sto a casa. Allora, che vuoi? Niente, la solita storia, vi voglio dire a tutti quei moralisti, io ce l'ho con i moralisti, lo sai, non lo so, purtroppo è così, e a tutti quei moralisti, mi ascolti? Sì, sì, ti ascolto, mi ascolti, dimmi. Ma che roba è, mica una seduta della psichiatrica? Sì. E voglio dire, tipo quello che disse Gesù Cristo su quello scale della prima pietra, lo voglio dire, una chiave moderna. Ma che chiave moderna, di cosa? Ascoltami. Voglio dire a tutti quelli che mettono le cimici, che le fotocondole, che se la vita di ogni essere umano esistente sul pianeta Terra verrebbe filmato e registrato, solo uno si salverebbe, il Padre Eterno. E sai perché si salva? Sì. Perché non si può muovere, perché se gli tiriamo quei tre chiodi, lo mettiamo a terra, fa danno pure lui. No, ma che considerazione? No. Questa è una... Io ho detto le stesse cose che disse lui, tant'è vero che quella pietra, neanche lui la scagliò. Detto questo, Gesù sono Cristo un grande credente. Ma Giuseppe, io sono un grande io ti voglio credente bene, a Giuseppe, ma dici delle cose violente, sono, ma sei matto, sono, sei. Non sono credente. Ma sei blasfemo. Ma sei matto, blasfemo sei, vergognati, blasfemia. Che hai parlato di Gesù Cristo di togliere i chiodi, vergognati. No, aspetta, lui non la scagliò con la pietra, io sono un grande credente. Ma meno male che sei credente. Non sono credente come quelli che credono, fanno i credenti per prendere i voti. Io non devo prendere nessun voto. Quelli che fanno ma i comunisti, quali voti? Quelli che fanno i comunisti e vogliono chiudere come Gardini, in Barcadella. Gardini? I comunisti vogliono vivere come ma che c'entra adesso questo? Scusami, che c'entra? No, io ho detto la massima. La massima, tu hai detto la massima. Con una chiave moderna. Ma quale chiave moderna? Ma quale massima? Non sei George Bernard Shaw, hai capito? Non sei Oscar Wilde, tu, la massima. Stai zitto, Parenzo. Che tu la sai lunga, Parenzo. Io ti voglio... Tu vuoi impegnare a cosa... A che hai detto che vuoi bene io, adesso? Ma stavo, io non ti voglio bene. Io a te non ti voglio bene, però. Io a te non ti voglio bene. Sì, perché? Posso io perché. Poi vedi. Che c'è? Ti stai prendendo un colpo. In Italia fanno tutti i moralisti. diciamo per... Ma perché ti sei fissato con questa cosa? Devono capire sì. che con la corruzione sì. e con la malavita ci devono convivere. Ma chi? È inutile che fanno degli stronzi. Ma chi? È una vita che fanno gli stronzi. È Don Manno e Giuliano che la malavita e la sì. politica è sempre andata... Un attimo, perché. fermati. Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Beh, io non ho capito ancora perché Savino dà dei cornuti a tutti. Savino, a chi dai dei cornuti? Ma perché lo trallo? No, lo sapete bene chi. Sapete bene chi sono. Chi sono? Ce l'ho, vedi Fini, Casini, fanno tutti i moralisti, no? Ma Fini è morto, non c'è più ormai. Fini, Berlusconi ha avuto tante donne, sta ancora in pista. Fini, una donna ha avuto la Tugliani, sta ancora in pista. Fini, una donna ha avuto la Tugliani, l'ha mandato fuori in pista. Berlusconi con tante donne sta ancora in pista. E allora? Poi Casini è un altro moralista, no? Io a me mi piacerebbe Casini. Io a me mi piacerebbe. Ma perché lo intervisti come fosse Vittorio Zucconi, questo qui? Ma io non capisco! Lo tratti come una persona normale! Non è normale! Vorrei essere una cimice, ma quando sta. Sempre le cimici vuole mettere, dai, ma. Quando sta a cena, ma chi? In un salotto con i cartagirone, di che parlo? Che poi parlo di conflitti di interesse. Mi spieghi perché lo intervisti come fosse? A me mi piace essere una cimice. Da mettere con Casini. Ma quando tu ti rendi conto? Lei si rende conto che sta intervistando come una persona, come fosse Stefano Folli, lo tratta lei, no? Lei sa chi è Stefano Folli o no? Poi vedi, io ci voglio bene a tutti, ma ci metto là, c'è già il culo. Ma non puoi trattarlo come uno normale. Senti. Ma hanno chi? Io voglio in questa trasmissione Stefano Folli. Voglio Folli, voglio Barbara Spinelli. Non te che cimici a culo. Se i polizi comportano ancora così. Che i politici comportano ancora. Ma quali politici così come si comportano? Basta! Vedi. Ma non vedi niente, vedi. Tu devi ringraziare Cruciani che ti chiama come fossi una persona. No, veramente chiama lui. Una persona normale. Vabbè, Savino, ti ringrazio. Diciamo per un momento. Ecco, sì. L'editoriale di Savino. 60.000 detenuti vorrebbe fare una trattativa, ma non una trattativa come quelle che hanno fatta. Una trattativa seria direbbero 60.000, ma mancano i soggetti, il verbo, manca tutto. Diciamo che 60.000 detenuti. Ma diciamo chi? Qual è il tema? Qual è il soggetto? Qual è il verbo? Direbbe allo Stato, vogliamo fare una tregua. No, ci avete tolto tutto. Vogliamo, metteteci in condizione, non vogliamo delinquere più. Metteteci in condizione di lavorare. Ci avete la soluzione per questi 60.000 detenuti? Zanzara! C'è una zanzara tigre. Ah, io non ce la faccio più, Parenzo, però, di ascoltare questo Savino da Bari. È sempre più confuso. Poi cioè, la prima telefonata era eccezionale, poi dopo ha cominciato a sbroccare. Cioè. Adesso si avventura a parlare anche di detenuti, di soluzione del problema delle carceri. Vabbè, io voglio parlare però di alcuni sottosegretari o viceministri, che dir si voglia. Presidente della Commissione Esteri della Camera, chi è? Ma non lo so, non mi interessa. No, ma chi è? È Commissione Esteri. Senato o Casini? Esteri della Camera? Signor Cicchitto, chi è? Ad esempio. Che ruolo ha il signor Cicchitto? Mi risulta che sia presidente della Commissione Esteri. No, non è presidente della Commissione Esteri della Camera, che dici? Cicchito. Ma non sei informato come al solito? È nella Commissione Esteri, ma non credo che sia il presidente della Commissione Esteri della Camera. Ma non sei informato. Invece, credo che sia il presidente della Commissione Difesa della Camera, se non sbaglio. Anzi no, sottosegretario alla difesa, Roberta Pinotti. Ah, la Pinotti, certo. Noi già governo ombra del PD, ministro della difesa ombra ma del chi PD. Se ne frega, noi la ricordiamo quando canta Eppure soffia ancora. Da noi? Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni fra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli, eppure il vento soffia ancora. Beh, insomma, coraggio 8, voce 4 e mezzo, Sì, deboluccia, deboluccia. Sottosegretario alla difesa o viceministro, non mi ricordo. Comunque Cicchitto è presidente della commissione esteri della Camera, hanno piazzato tutti i vecchi arnesi, detto in senso buono. Beh sì, non è un volto giovane, non è un volto giovane l'amico Fabrizio Cicchitto. Com'è che ti ha risposto a te quella volta con Saviano? Con Saviano quando sei andato a... Ma sarà un mito tuo, Ma è un mito vostro, ma di gente come voi. La domanda qual era? La domanda qual era? Ma perché avete trattato... Ma perché non le piace Saviano, presidente? Saviano? Saviano è per gente come voi. A piace a gente come voi? Dico no, ma come un simbolo della lotta alla mafia? Sarà un simbolo vostro! Falcone è un simbolo della lotta alla mafia! È roba che piace a voi, Saviano. Ma te la ricordi Simona Vicari? La mitica Simona Vicari? La Vicari PDL, senatrice, come no? La maglietta insieme alla Mussolini, no? Come no? Su Prodi, veste Prodi. Sì. Nei giorni turbolenti dell'elezione al Presidente della Repubblica. Bene, quella maglietta le ha dato un premio, sottosegretario allo sviluppo economico. Chissà che se sa come sviluppare l'economia la signora Vicari. Cioè il vice di Zanonato, praticamente. È il vice di Zanonato. Numero due, sì, la vice di Zanonato. Una delle vice di Zanonato. Vicari, il più perseguitato dell'umanità, Berlusconi. Senti. Sappiamo perfettamente che Berlusconi è l'uomo più perseguitato dell'umanità. Dalla giustizia dell'umanità. Sì. Non c'è persona, non politica, dell'umanità. Non, io non dico dell'Italia, è dell'Europa. Dell'umanità non esiste. Dell'umanità non esiste persona che è stata più perseguitata dai giudici. Sì. Beh, hai sentito Pancani di sottofondo, no? Che era un po' imbarazzato. Solo tu, signor Pancani. Cioè, magari che conduce Omnibus. No, io abbraccio fortissimo. Perché devi citare sempre i tuoi colleghi per leccare il culo? Perché ho sentito sempre la solita roba. No, perché io saluto anche il direttore di questa. Ma sei un leccaculo. Questa è una bella radio. Sei il solito leccaculo. Ma... un attimo, fammi sentire la Vicari che dice: Berlusconi è eccezionale a raccontare barzellette. Sì. Ah, guardi, Berlusconi a raccontare barzellette è unico. Perché poi? No, io adesso me lo ricordo, però vi dico questo, che lui non si limita a raccontarle. Lui le mima le barzellette, le mima in una stanza, non è che le mima sul posto, lui si muove, si va spostando, è proprio una scena di teatro e lui la svolge tutta, è eccezionale. Berlusconi ha scritto pagine di storia. Sempre lei? Sì, sottosegretario. Sono certa che alcune sue pagine saranno scritte nei libri di storia. Soprattutto sullo scontro con i magistrati, sul G8 a Napoli, ci sono dei momenti proprio storici che saranno scritti da questo scontro tra politica e magistratura che ha condizionato la vita del nostro paese. Ha scritto pagine di storia. Sicuro, la storia di Mubarak e della nipote verrà ricordata nei libri di storia. Da questo sicuro. Punto di vista è vero, nella storia italiana ci sarà un posto per Berlusconi. Vabbè, questo come c'è posto per Mussolini, per qualunque altro. Vabbè, ma che c'è? C'è posto per Berlusconi, per altri c'è non posto, ci sarà posto per Einaudi. Non però ci sarà posto per Bersani, per esempio, no? Beh, per Prodi sì, ad esempio. Un attimo. Chi è questo? Beh, vediamo. Pronto. Oliviero? Chi è? Sono Cruciani. Parenzo, ciao. Bello. Oh, ma che hai detto? Che fai? Che hai detto? Che le donne devono smettere di mettere il rossetto e di portare i tacchi? Basta, ma rotti i coglioni. Ma non è vero. Ma come non è vero? L'hanno scritto tutti, Oliviero. Bene, sono contento che scrivono queste cazzate. Ma perché? È vero o non è vero che hai detto sta frase? Sì, è vero, che smettano. Perché devono smettere? È così, mi piace, che in un certo momento non è tutto il rossetto, basta tacchi, basta fare le fighe, vediamo cosa succede. Ho capito, però non è che... È una provocazione un po' eccessiva. Non è che per questo no, è evidente. Perché no? No, ma io sono contento di questa provocazione, però voglio dire, secondo te, se tolgono il rossetto e i tacchi ci saranno meno stupri? Ma no, ma non è questo il discorso. Beh, scusa, la frase è questa, le donne smettono di mettere il rossetto e portare i tacchi. No, il discorso è diverso, mi dicono. Sì. La Boldrini ha detto di smettere di dare alle donne usare il corpo e le donne nella pubblicità, che è una grande cazzata, dillo, è una grande cazzata. Solamente la pubblicità che fa questo. Ma guardate la Gruber, cazzo, la Berlinguer tutta pitturata, non so io queste. E che cazzo, chi devono sedurre? Allora ho detto basta con questa seduzione fatta di Rossetti e tacchi a spillo, basta. Questo che ho detto. Sì, ho capito, ma allora, partiamo dalla pubblicità. La Boldrini ha detto una puttanata, diciamola tutta. No, puttana non lo so io, ma trovo cose così banali. Su quelle cose così banali. Sì, sì. No, così banali, c'è la presidente alla Camera, lo so io. Se lo può risparmiare, insomma. Sì, no. Appunto, però è normale che le donne si facciano belle con le gonne, i tacchi. Si fanno belle, si stanno rovinando facendo questo. Il problema è questo, guardale. Con le labbra canotto, le tette di plastica, le labbra finte, guardate la labbra Parietti, poverina. Ma la Parietti sì, c'ha un po' di cose rifatte. Ma questo non lo sappiamo. Un po' di cose rifatte, le altre, le Gruber no. La Gruber è rifatta, ma secondo te? C'è quella Gruber? Madonna, gli costerà 40.000 euro l'anno, come minimo. Ma no, che come si fa a sapere? Ma non è vero, dai. Scusa, ma di più. Scusami un attimo, Oliviero, ma la Gruber per il fatto che è rifatta attira i maniaci e i violenti? Ma no, ma attira questo strano senso della seduzione, ma chi deve sedurre? Raccontimi le notizie. Ah, tu dici che ci sono troppi conduttori. Ma donne... se uno è anche bello, scusa, se uno è anche bello. No, quello non è bello, secondo me, è finito. Quella bellezza lì, cioè, è per me è una roba da travestiti. Infatti, i travestiti tutti si pitturano, si fanno tutte delle maschere. Cioè, la Gruber sembra un travestito. Tutti mascherate. Cioè, la Gruber. Crociani, non farmi dire le cose che non ho detto. Beh, scusa, so che a te ti piace. Non ho detto che i travestiti piace mascherarsi. Sì, sì. Giusto? Basta. E chi sembra un travestito sul video? Spiegami. No, devo dire che i travestiti, il sogno travestito è assomigliare a Marilyn Monroe. Sì. O no? Sì, assolutamente. Ecco. Hai visto Luxuria l'altra sera? Non c'è bisogno di fare, cioè, come si chiama? Platinè, non c'è bisogno di fare il baracconate per essere omosessuale. Perché un omosessuale deve fare il baracconate? Scusa, però Oliviero, ognuno va in televisione come gli pare. Se uno si vuole pitturare il viso, se uno si vuole rifare il labbro. Però quello è un luogo comune, però che strano che facciano tutte così. Ma no, tutte, ad esempio, Lilli Gruber è oggettivamente una bella donna. A me piace molto oggettivamente. A te non piace la Gruber? Oggettivamente a me piace, bella proprio, è fine, è elegante. Ma è una bambolina pechinese, sì. Un oggetto soprammobile. Ma no, a me piace molto perché è una donna di un'eleganza. Poi siccome tu sei comunista, quindi quelle robe lì. Siccome è dietlin. Sei comunista, ti piace quelle robe lì che vogliono essere finto ricco. Sì, non so come dire, quelle oggetto, un oggetto. Ma come un oggettino, sì. Ma invece è molto bella, elegante, è dietlinde. Cioè è anche... Ma non è vero che è elegante, donna elegante era Rossella Falchi, tanto che importa per l'altro. Vabbè, è una bella diversa. Donna di classe, anche la Bianca, la Isabella, no, come si chiamava, la Ingrid Bergman, te la ricordi? Ma vabbè, d'accordo, ma di trucco, quelle sono le donne, no, belle. Su questa ragione qua di travestite quasi, ma anche la Berlinguer ad esempio ha veramente un filo, solo un filo di trucco, è stupenda, con quella pelle bellissima, una maschera. Ma guardala, cioè, con gli occhi distratti. Ma è rifatta pure lei, secondo te? Tirate, ma è impazzita. Sembra la zia che andava in vacanza sul lago di Como. No, c'era una roba. Ma è rifatta, secondo te? È un trucco quasi fascista, di stile fascista. Ma è rifatta, secondo te? Ma non so, ma sicuramente, insomma, guardatele il collo e guardatele la faccia. Ma che ti frega, ma non è vero, ma è una donna meravigliosa, bellissima, di un'eleganza, di una sensibilità stupenda. Cioè, non usciresti una sera a cena con la... Immaginati la Berlinguer senza tutto quel... Ma chi c'entra? Che bella donna sarebbe. Cioè, tu usciresti a cena una sera con la Gruber o no? Ma non è questione di uscire a cena, ma io esco a cena anche sono andato anche con Parenzo, figurati. Questo è vero. Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Siete due bastarde nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltarvi. Tanto per cominciare. La strada. vi rompo i coglioni. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Caro Parenzo, beh, uno dei sottosegretari, mi piace ricordare il passato di questi uomini di governo, l'abbiamo pizzicato con uno scherzo, te lo ricordi, la signora Borletti Buitoni? Ah certo. Prima com'è? Crozza, sentiamo Crozza sulla Borletti Buitoni, sì. È sempre bello ricordare Crozza, risentire tutto affresco come, come dipingeva la signora Borletti Buitoni, la quale, mezza trombata alle elezioni come tutti i montiani, poi ovviamente sono rispuntati al governo. No, lei Ilaria Borletti Buitoni, che insieme a Lidia Rotavender vanno storte così. E poi c'è Paolo, Vitelli, che è il re degli yacht. Questa gente qua, io credo in loro. E aderiscono tutti alla lista Monti. Cosa hanno in comune queste persone? Beh, che loro davvero potrebbero risolvere i problemi di questo paese. Io credo in loro. I believe in them. Basterebbe mettergli una patrimoniale a loro, dico solo a loro. Basterebbe metterla a loro. Il più povero di questi qui ha la canciacca. Ma no, quella del risico, quella vera in Asia. Così Crozza e così la Zanzara. Parenzo, truccato da Cacciari, dal professor Cacciari, nei giorni in cui, no, si decidevano le sorti del paese insieme a quelli della Lombardia, quando la signora Buitoni fece un endorsement per il candidato contrario al signor Albertini, cioè Ambrosoli, cioè disse io voto Ambrosoli perché solo con Ambrosoli si può battere Maroni, noi la intercettammo con un finto Cacciari, ecco qui. Pronto? Pronto, dottoressa Buitoni? Sì, chi parla? Sì, buonasera, è la segreteria del professor Massimo Cacciari, posso passarglielo? Sì, volentieri, grazie. Grazie, buonasera. Pronto, ciao, sono Massimo. Buonasera, buongiorno. Io purtroppo sono in una serie di gallerie, per cui se va via la linea richiamerò. Sì, non ti preoccupare, volevo soltanto farti i complimenti per questa cosa di Ambrosoli che hai fatto, perché veramente bisogna fermare la Lega. Fermare la Lega, ecco. Sì, ma io non so, a Milano sono diventati matti, guarda, sono stata coperta di insulti da tutti. Non ti dico Albertini il fango che mi ha tirato addosso. Ma non ho mai... Non hanno capito la gravità del momento, l'hai capita, e sono convinto che anche Mario sa come vanno le cose, perché anche lui, sono convinto, nel segreto dell'urna voterà Ambrosoli, ma è una cosa incredibile. Sì, ma poi il voto Albertini non è un voto credibile, Albertini è stato fino all'ultimo in trattativa con Formigoni, non ci crede nessuno a quel voto lì. E poi uno che si è tenuto il Senato come... Mai visto come c'è cascata con tutte le scarpe, ma caro Parenzo? Ma poi si giustifica, poverina, che dice no, sono in macchina, scusa. Ma poi tra l'altro hai fatto un Cacciari anche meno efficace del solito. Siamo qui con Giovanni, provincia di Ancona. Buonasera Giovanni. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Incazzato nero. Perché? Incazzato nero. Perché quando qua si va a sparare i carabinieri, a me rode le scatoline, perché i carabinieri... Un attimo, resti lì. Chi è questo? Aspetta. È da tempo che tento di pizzicarlo. Sì, Stefano? Sì, buonasera, Stefano Bagagnotto? Sì. Sono Cruciani. E io Parenzo. Ah, aspetti un attimo, signor Cruciani, sono in farmacia. Sì. La famosa farmacia di Stefano Magagnotto, Roncà, provincia di Verona. Una cosa pazzesca. Ah sì, che scrisse una lettera. Con comodo. Scrisse una lettera. Faccia con comodo. Scrisse una lettera su Avvenire. Ho fatto. Scusi. Non pensi che sia emozionato, sa, di parlare con lei? Ma chi ha detto che deve essere emozionato? Scusi, perché lei ha scritto... Ma scusi, è in diretta questa? Ma lei certo, non si preoccupi, sempre in diretta. Scusi un attimo, perché lei è disgustato? Non ho capito perché è disgustato. La Zanzara ha scritto una lettera da Avvenire, si vergogni. Non sono emozionato, non senti la sua voce, dico. Vabbè, chi ha detto come che deve essere... Come mi chiama? Ma lei ha scritto, ricordiamo cosa ha scritto il signore. Insomma, Magagnotto, lei ha scritto una lettera da Avvenire, disgustato dall'ascolto del programma. Ne ho scritte centinaia di lettere. Ah, beh, contro di noi. Lei è ossessionato. Lei ha un'ossessione. No, ce l'ho contro le parolacce. E vabbè, pazienza, se le becchi ogni tanto le parolacce. Lei non le dice mai? Lei non le dice mai? Io, lasci parlare un attimo, io ho grande stima del vostro programma e tutto ciò che è cultura. Quella sì. Sera lì veramente cultura. Siete caduti a livello... Lei ha usato la parola ultras definendo chi aveva cosa vuol dire inveito contro dei politici. Voi vi siete comportati peggio degli ultras. Ma non, non mi ricordo nemmeno quale. Io sono juventino da 40 anni. Scusi, Magagnotto, lei ha scritto ad Avvenire dicendo che era con suo figlio in macchina. In macchina, sì. Sì, ha sentito parolacce rivoltanti e irripetibili, sì. Ma non no, mi risulta. No, rivoltanti, parolacce che per no, me. Lei ha scritto rivoltanti e irripetibili, ha scritto lei, mica ho scritto, scritto io. Lettera. Sì, è vero, confermo. Io la vostra questa lettera l'ho fatta avere a tutti i miei presidi, a tutte le scuole di Verona. Vabbè, non succederà niente, guardi, si rassicuri, si mette l'anima in pace, non succederà nulla. Qual è il problema? Non lo so, lo so. Se questa è la società in cui lascerò i miei figli, mi dispiace, signor Cucciani. Ma quale io società posso... è un programma radio? Non è la società, è un programma radiofonico. È un programma radio, ma voi siete educatori, porca miseria. Siamo educatori. Ma non sono educatore io, l'acquarello se mi dà dell'educatore, io sono un diseducatore. La porto in tribunale. Ma non è possibile, non sono educatore. Mi porto in tribunale per queste cose. Ma chi fa radio o televisione non è educatore. Anche Piero Angela è un educatore, ma lui neanche sì. Fa un programma di divulgazione scientifico. Ma allora perché sei mesi fa non dicevate queste parole qua? Io vi ascoltavo sempre. Ma non è vero, educatore. Sì, sono Cucciani, dai. L'abbraccio fortissimo. Cosa sta vendendo i preservativi nella sua farmacia? No, non lo facciamo. Come non lo fate? Amico mio, mia moglie non vuole, è lei che comanda. Ma scusi, ma lei è obbligato. Ma veramente non vende nella sua farmacia. Ma perché non vende i preservativi nella sua farmacia, scusi? Che forti che siete. Ma no, dica la verità, non ci scherzi, veramente non vende preservativi? No, li abbiamo. Ma li mette lì in bella mostra almeno? No, in bella mostra no. Siamo farmacisti di vecchia... Ma che c'entra? No, li nasconde dietro la colonna, non li nasconde, sì, scusi. Bravo. Ma come li nasconde? Amico mio, preservativi? Lei deve mettere un cartello, qui si vendono preservativi, no AIDS, viva l'amore, no malattie venere, e questo deve mettere. Scusi un attimo, ma non c'ha fuori la macchinetta che distribuisce i preservativi? No, siamo perché? Contro questa farmacia, non siamo per la ma farmacia. Ma contro cosa? Cucciani, c'ho 20 anni, più di lei, porti pazienza. Scusi, Magagnotto, ma lei quanti anni ha? Scusi, Magagnotto. Magagnotto, come nome, lei? 56 anni. L'ha mai usato in preservativo in vita sua? Ma sì. No. Ma come? Non è vero, dai, non scherzo. Ma lei dovrebbe essere interdetto dalla professione di farmacista. Interdetto, cancellato dall'ordine dei farmacisti. Io ho 4 figli. Quindi l'ha fatto solo 4 volte? No, l'ha fatto anche. Spiritosi. E sabato vado della Juve e domenica vado del Trento. Ma chi se ne frega? Questo non c'entra. No, però, scherzi a parte, i preservativi li venda, però. Sì, li abbiamo. Però le viene la pillola del giorno dopo? Anche perché è obbligatorio per legge. Se no, fosse per lei non la venderebbe, diciamo. Ma sì, c'è l'obiezione di coscienza. Scusa, ma se viene una ragazza e chiede dei preservativi, lei che fa? Io do, se li prende, sono lì. Però lei dice, meglio... Ma voi, Cruciani, non tiri acqua su mulino, non mi metta a parlare di cose che a me più di tanto... Ma non è una parolaccia dire preservativo? No, si può dire? Si chiama prevenzione. Prevenzione. Sì. Io ho 4 figli, 2 sono grandi, devo parlare di queste cose. Vabbè, caro farmacista, l'abbraccio fortissimo, a presto, grazie. No, però Cruciani, mi prometta di tornare quello di qualche tempo fa, dai. Magagnotto, ma lei è uguale a qualche anno uno fa. Uno che si chiama Magagnotto, però, men. L'abbraccio forte, a presto, grazie. Scrivete Magagnotto su Google, così capite, e dopo, nella scuola che rappresento, i professori parlano bene di voi, fate in modo che continui a parlare bene di voi. Va bene. Un bacio, un abbraccio. Comunque, ciao. Cucciani, posso? Ah, Magagnotto, ma che vuole dire ancora? Posso? No, lei ci ha preso gusto, che vuole? Ha preso la telefonata. Grazie, ciao. La saluto. Allora, Giovanni, dove eravamo? Sì, eravamo al discorso dei carabinieri, il carabiniere che è stato ferito. Vecchia come discorso, vecchissimo. Sì, però io le voglio dire questo, per cui ho telefonato e voglio dire la mia. prima di tutto noi siamo, io faccio parte dei piccoli imprenditori, sono incazzato nero, questo governo è stato fatto da una mucchiata di peracottari, di gente ignorante, adesso... incapace. Ma sarà ignorante lei, però, Giovanni, ma chi si sente lei? Ma chi gliel'ha detto a lei che sono ignoranti? Chi l'ha detto? Dico io, perché lì c'è gente che veramente con la zappa andrebbe d'accordo. Non ma quali sarebbero? Ma ignorante sarà lei? Ma tanti, ne sono tanti, i grillini, eccetera, eccetera. Quelli di Berlusconi non ne parliamo. Vabbè, ma lei è il solito che prende a pesci in faccia tutti senza dire. I coglioni di vedere gente che si è ammucchiata, che hanno fatto un discorso e ne hanno applicato un altro. Siamo veramente stufi. Stufi. Quel signore ha sbagliato l'obiettivo. Noi siamo solidali con i carabinieri, le forze dell'ordine, ma non siamo solidali con quello che era l'obiettivo. E qual era l'obiettivo? Non l'obiettivo di questi stracazzi. Guarda, questo è pazzo. Benedetti cornutoni che ci abbiamo parlato. Ma lei deve essere ricoverato. Lei ha qualche problema. Io non devo essere ricoverato. Lei ha qualche problema personale. Italiani che ne abbiamo pieno il coglione. Ma di che cosa? Noi paghiamo le tasse, andiamo in banca, non ci danno una lira. Ma noi chi? Ne abbiamo pieni i coglioni, noi imprenditori. Ma quale imprenditore? Ma quale imprenditore? Se lei è imprenditore, io sono il direttore del Corriere della Sera. Basta! Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Le zanzare di casa mia. Siamo qui, la gente è sempre più incazzata, ma secondo me è frustrata e dunque se la prende con i politici, mettendo in mezzo tutti. Stefano da Torino, lei buonasera. È uno dei responsabili di questo perché? Clima incendiario di odio. Perché sono responsabile? Perché? Calma, ci vuole tranquillità, cioè, tutto è urlo, basta. Wagner, Beethoven. Ma come Wagner? Al posto della zanzara? C'è gente che urla. Una bella Carruba, mettiamo, il signor Salvatore Carruba. Ma i no, libri, è adatto a fare libri, altre cose. I libri a quest'ora. Fa al posto della zanzara. Posto della zanzara. È un linguaggio. Lo dice perché incendia gli animi, non sono Prodi. Lei ogni volta invece incendia gli animi, mi chiamano camionisti, gente matta. Dice che sempre parolacce. Serenità. Pacatezza. Ho capito, però scusi, al posto degli ascoltatori, battaglia, sangue e merda, ma cosa? Riflessione sulla Grecia, il PIL, no, leggere gli atti fondativi della CECA, che non è una donna CECA, ma è la, la nascita della Repubblica, della Comunità Economica Europea. Ma quello era Focus Economia, era sempre ospite a Focus. Sempre, da Barisoni, domande nette, calme. Barisoni chiede, cioè, qual è il futuro dell'Europa? Io parlo per mezz'ora e nessuno si accorge, niente, neanche Barisoni. Si accorge e intanto Barisoni legge il suo iPad e io calma, tranquillità, serenità. Barisoni fa una domanda e io con calma rispondo senza quest'ansia, traffico, parenze, telefonate, chi uno che chiama, manda a fanculo, no, solo una domanda. Vabbè professore, però lei ci vuole morti. Vabbè. Stefano da Torino, su, grazie professor Prodi. Buonasera Cruciani. Dica. Ma una curiosità, se posso, ma a lei le danno un'indennità per lavorare con David Parenzo? Perché quell'uomo, dal latino, è un deficiente. Cioè che manca, mancante, sì è vero, mancante. Mancante, è scarso, Parenzo. Mancante di cervello, deficio, deficis, defeci, defectum, deficere, è vero. Conoscere, al contrario di Cruciani, dimostra che di non conoscere i meccanismi di certi poltronismi in questo paese. Abbiamo detto, e lei ce l'ha sempre sulla bocca, la signora Beatrice Lorenzini, ma cosa le ha fatto sta signora? Ma me lo dica. A me? La Lorenzin? Io la conosco da niente, assolutamente, anzi. Ma parlava della Lorenzin perché ha rinnovato la convenzione, che mi sa che è il caso di applicare, la di convenzione, attivare, sì. La convenzione, ripetila tu Parenzo, quella convenzione. C'è una convenzione tra il Ministero della Salute, lei è appena diventato Ministro della Salute, e Radio 24, la Zanzara. Cioè per le persone che sono un po' a disagio e che hanno problemi mentali, telefonano qui alla Zanzara e noi facciamo direttamente il trattamento, capito? Ma Parenzo lo pagate voi questa retrasmissione? Grazie Stefano. Gabriele dalla provincia di Livorno, buonasera. Sì, salve, buonasera. Vada. Niente, io vi ascoltavo ieri. Sì, allora? Ieri. Vi ascoltavo, vabbè, abbiamo capito. Dicevo a te, sì? Carlo Cruciani, che sì. Hai fatto un discorso che da schiaffi, Discorsi? Da schiaffi. Con quel povero uomo, sì, da schiaffi, veramente. Con quel povero uomo che era a macchina che sbraitava senza senso. Sì, se un ascoltatore detto, si è incazzato. Quando gli ha detto, ma succede spesso, non è mica la prima frustrato. Volta. con la cicciona, eh? Certo, cicciona, con la moglie cicciona a casa che lo aspettava, lui non voleva tornare. Ma molto, ma se quello lì aveva davvero la cicciona a casa e se veramente, magari perché aveva un problema di salute ed è diventata grassa. Ma ti rendi conto cosa? Vabbè, Gabriele, ma chi se ne frega, io non l'ho offeso, giocavo. In maniera... Guardi, guardi, anche se l'avessi offeso, non mi interessa, perché questa trasmissione fa della ferocia, la ferocia, lei conosce la ferocia? La ferocia. Sì, ma la ferocia sua... per la ferocia senza senso, non ha, diventa... Ma è lui che mi ha sfidato, diventa, è lui che mi ha sfidato. Normalità. È lui che diventa mi ha sfidato, normalità. Mi ha sfidato, mi ha insultato... Della ferocia dici te. Gabriele, mi ha insultato per 10 minuti dicendomene di tutti i colori per il fatto che abbiamo chiamato dell'Utri alla Zanzara. Cosa vuole che... Come voleva che le rispondessi? No, grazie. Allora mi dia un altro schiaffo. Però mi colpisca bene questa volta. Gabriele, abbia pazienza. Su. Ti rompo i coglioni. Se ho dell'Utri, ho capito, parlare di sinoppi coglioni a Santo Domingo, ci sono 26 gradi, si può passeggiare sulle spiagge. Non si capisce. Si rompe i coglioni, vabbè. Si rompo i coglioni. Ho capito, però non è che cioè non è colpa nostra. Piove sul bagnato, cioè, sempre, non può però, dire alla gente che è qui in coda sull'autostrada che lei si rompe che i coglioni a Santo rilassato, Domingo. Rilassato in costume da bagno. Si rompo i coglioni. Ho capito, vabbè, però la gente si incazza poi. Si rompo i coglioni. Ho capito, ma poi la gente si arrabbia, quelli che vanno a lavorare, quelli che insomma devono spangarla. Lei a Santo Domingo è condannato per associazione concorso esterno e associazione mafiosa. Lei dice: "Oh, io non amo il golf, passo qua le giornate, ci sono 26 gradi, è un clima paradisiaco che si rompe i coglioni". Ho capito. Santo Domingo mi rompo i coglioni. Ma ho capito, però non è bello. ride, vabbè, e ride. Gabriele, ha capito? Proprio in quel momento lì io l'ascoltavo. Mi sembrava di essere veramente nel film del Padrino. Ma che film del Padrino, che dai. Vuole bene a tutti e benedice tutti. Quel linguaggio sa perfetto da Padrino. E voi eri lì a baciargli le mani, eh? Sì, a baciare anche la pantofola, non solo le mani, anche la pantofola, Gabriele. Ma mi avete veramente rotto i coglioni con questa storia, mi avete rotto i coglioni. Glielo dico chiaramente, mi avete rotto i coglioni. Io chiamo dell'Utri perché voglio chiacchierare amabilmente col signor dell'Utri. Ma non c'è dubbio. Le accuse le fanno i magistrati e poi se ho qualcosa da rimproverare a dell'Utri, lo dicono i magistrati. Che bisogno c'è? Che facciamo un altro processo per radio a dell'Utri? Poi è oggettivamente simpatico, c'è lui. Beh, cioè, che dobbiamo dire a dell'Utri? È condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Detto questo, cioè, abbiamo detto tutto, basta, cioè... Mi rompo i coglioni. Poi è grandioso perché va a Santo Domingo e dice pure, cioè è un gigante, capito? Dice cioè pure... non è che dice no, sono Santo Domingo. Sto benissimo, alla... no, mi rompo i coglioni. Mi rompo i coglioni. Capito? Okay. Vabbè, allora, grazie Gabriele. Enrico da Prato, buonasera Enrico. Salve, buonasera. Allora, Cassani, buonasera, andiamo. Sì. Sai, te volevo chiedere, ma quando tornate a abbassare un po' i toni in trasmissione? Abbassare perché... i toni? No, ma l'ha detto prima Prodi in questo collegamento che abbiamo fatto, sì, dovremmo abbassare i toni. Ora butto su il telefono, se mi riassimila a Prodi e ributto giù il telefono. Ho capito, però lei sta dicendo la stessa cosa che dice il professor Prodi. Saluto. Non faccia quel che vuole, ma chi se ne frega. Buonasera. Ma perché deve buttare giù il telefono? Perché siete insopportabili. Ma allora perché chiama? La suocera che è dietro. Perché siete una trasmissione, siete su una radio che ascolto normalmente, ma siete inascoltabili. Vabbè, d'accordo. Prendetevene conto. Ce ne faremo una ragione. Ma assolutamente. Non ve ne fate una ragione. Siete autocelebrativi. Autocelebrativi? Sì, ma di quando? Sì. Come? Perché? Quando? Ma sempre. Come? Quando? Ma lo senti come parli, come rispondi, come ti relazioni con le persone? Sì, come nella vita normale. Come nella vita normale, sì. Allora qual è il problema? Ma nella vita normale penso che tu non abbia un microfono davanti, no? E invece io... riproduco la stessa cosa. Ma lui fa così, faccio così. Quando siamo... vai a correre, te hai il microfono. Vabbè, che c'è? Adesso non corro. Quando ti alleni? Adesso non corro. Hai detto nella vita normale. Quando sì, stai a casa, parli al microfono. Ogni tanto. Dai, per favore, hai una platea. E allora? Che perlomeno vuole. E allora sii dignitoso invece di usare sempre. Parolacce, epiteti. Io non uso sempre. Lei non ascolta 2 ore e mezza di trasmissione, ha capito? No, Massimo da Napoli. Potrei stare 2 ore e mezza davanti peggio a, per lei. A guardarla. Peggio per lei. La sua foto. Peggio per lei. Peggio per lei. Massimo da Napoli. Massimo da Napoli. Buonasera, buonasera a tutti. Che vuole? Allora, due notizie posso tagliare. Allora, una volevo... Io sono un piccolo imprenditore napoletano che aveva 24. Vabbè, piccolo imprenditore napoletano, ci sentiamo domani, Ci sentiamo domani 18:30. Sì, ciao. Guardi, la vostra trasmissione lo potete chiamare Il Pascolo e mo le spiego perché. Cioè continuate così a invitare maiali che defe, quindi questo qua è diventato questa trasmissione Il Pascolo al posto del Il Pascolo, ok?